Friuli nel mondo. Friuli nel mondo. Profili di paesi. Osoppo. Undicesima trasmissione dedicata agli emigrati. Testo di Chino Ermacora. Partecipano alla trasmissione Ottavio Valerio, cantori e suonatori di Udine, cantori e gente di Osoppo, musiche originali di Evi, musiche popolari. Natale e Capodanno molti gli emigranti a Osoppo, per lo più stagionali rientrati dai paesi europei. Osoppo detiene un primato in questo campo. Contro i suoi 3.000 abitanti, 1.500 costretti a vivere in tutte le contrade del mondo. Costruttori osoppani accorsero fra i primi alle chiuse del Nilo, sulle ferrovie del Caucaso, nel Tonchino, in Australia. La Transiberiana li vide pontieri impavidi sui grandi fiumi. Non città d'Europa che non vanti solidi edifici da loro inalzati. Osoppani lavorano dalla Terra del Fuoco all'Alaska, dalla Scandinavia all'Africa, dall'Iran al Madagascar. Si può dire che dove un uomo affronta il clima polare o il calore dei tropici, ivi si incontrano osoppani. La campana maggiore della Pieve dove furono battezzati ricorda gli sperduti in queste migrazioni. I 150 sepolti in terra straniera, i 100 caduti nelle guerre recenti, i 56 civili uccisi dalle bombe sganciate dagli aerei sopra i cosacchi accampati nel paese, i volontari dal fazzoletto verde su cui era ricamato il motto «Pai nestis focolars». Questi rintocchi ricordano le cernide della Repubblica di San Marco che al comando di Gerolamo Savornian balzarono dalla ruppe d'Osoppo all'inseguimento degli imperiali che le avevano inutilmente assediate nel 1514. Il Osoppo salì in potenza di Carlo Alberto, guerriero in Italia. Il suo sangue si sparse in battaglia, i suoi cannoni si sentono volare. Rievoca i prodi che nel 1848 tennero il forte su cui sventolava il tricolore e per cui il villaggio di Osoppo, provato dalla fame e dagli incendi, fu decorato come Venezia e Vicenza di medaglia d'oro al valor militare. Gente di antiche tradizioni gli osoppani, lo confermano i suonatori e i cantori della Carnia che essi accolgono di casa in casa. Vengono a porgere gli auguri per l'anno nuovo, ricevendone in cambio vino e cibarie. Quanto basta per portare un po' di conforto ai familiari, poveri come i pastors del Signore. Buon'ansia parola che Dio usdedi dal che sta e che sta singinius di lontan come i pastori dal Signore e lui sarse calesio si visi de buine man vignus di pollerron vollei dritto al se tanti di forre d'un splendor di ne sul Nel tepore del chiuso, le veglie rallegrate dalla poesia. Eccone una. È di un cantore della patria terra che fu maestro nel paese. Un quadretto di rassegnata tristezza. Padre e figlio che emigrano, accompagnati da due creature in preghiera. La partenze. Dalla raccolta Antigais di Enrico Fruc. Sophie plus grand e son mari son las. E l'han lassade a chiase con la frutta. Son las in France, avore te sfornas, che urvevin scritt che la stagione è butte. Par fal di spindi si son rassegnats avendi la di prime la vaciute. E ie, coe son partit, io accompagnats con la frutine fin alla crosute. Sta bon, ten con, sta donge di topari, i dis a min. Tu has di vai? Parce, tu vi odis ben, figno, che non mi lagni. Quant che forin lontans, la puore mari, strenzin la frute al sen, mine, i disè, su, prein il Signor che io compagni. Lieti gli animi tuttavia. Gli squilli delle campane che si dilatano sino all'opposta sponda del Tagliamento, sino alle luci di Gemona, annunziano il giorno del Signore e del riposo. L'armonioso concento ridesta ed è comprensibile tutte le nostalgie. I non rientrati a Natale sono più che mai presenti all'affetto delle madri. Ecco una madre, Orsola Costantini, che s'accinge a parlare al figlio natalino in ascolto a Toronto, Canada. Ca, aie la tua mamme, buono mastic, stasan, mammi, mammi, figlio. La segue Giustina Trombetta, rivolta al figlio Angelo, residente con la famiglia a Dakar, Africa occidentale francese, e al figlio Silvestro, residente con la famiglia a Johannesburg, Sud Africa. Agnul, busi mi frus, e la tua sposa, con tante benedizioni da mamme vostre. Palto non Silvestri tanti auguri da tua mamme, busi mi tutta la tua famiglia. Una terza, Evelina Costantini, invia un saluto al figlio Mino, residente a Brisbane, Australia. Mino, Mino, cieco pares avio di les mes frutis. Salus e augurios a tutti. Oh, Felicita Cosani, saluta il figlio Valentino, residente con la famiglia San Juan, Argentina. Tin, busades e salus da vostre mamme e nonne. Un saluto a tutti i osovans. Stelle e neve fan chiare le notti dell'inverno friulano. È il chiarore che riscalda i cuori obbedienti alla legge dell'amore. Tre giorni fa il comune tramandava nel marmo la memoria di Domenico Fabris, nella scuola dove gli insegnò agli emigranti. Fra i presenti, Giovanni Lenuzza, l'ottantenne istruttore del coro che porta il suo nome, emigrante lui pure nei paesi d'Oltralpe, dove colse il motivo della Stille Nacht, notte di Natale, che state ascoltando. Voci che affratellano i popoli all'insegna d'un umile presepe. si può concludere che gli emigranti e le loro donne, vere vestali dei focolari, siano radicati al paese come la roccia del forte. Se lontani, i primi lo portano nel ricordo accanto al volto delle persone più care. Or ecco, l'allegra brigata dei carnici ripassa cantando appunto gli auguri ai lontani. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, profili di paesi, Osoppo, testo di Chino Ermacora. Hanno partecipato alla trasmissione Ottavio Valerio, cantori e suonatori di Udine, cantori e gente di Osoppo, musiche originali di Evi, musiche popolari.